Do il buongiorno alla signora Daria Bonfietti, grazie per la sua disponibilità. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie a voi di avere ancora attenzione a questa lunghissima vicenda. Esatto, lunghissima vicenda, siamo arrivati al 42esimo anniversario. Anche quest'anno comunque si cerca di ricordare tutto quello che è successo alla strage di Ustica. Certo, non possiamo esimerci, questo è il 42esimo anniversario, come dire, proprio perché, e lo facciamo come sapete in comune, col sindaco, con la città tutta, con i responsabili e i rappresentanti della società civile, con i parenti che ci raggiungono da tutta Italia, perché i parenti di quelle vittime sono maggioranza siciliani, ma insomma di tutta Italia. Bene. E quindi quello è il momento di, come dire, di cerimonia, di ricordo per tutti. Poi noi continuiamo a dire, e a voler dire, a urlare, se ci riusciamo ancora, che proprio perché sappiamo di per certo che il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, e sto citando il giudice Priore, non sono parole mie, guerra, dice lui, di fatto e non dichiarata, operazione di polizia internazionale contro il nostro paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti. Questo scrive il giudice Priore nella sua sentenza ordinanza. Allora, dal 99, pensate, le cause le sappiamo. Non sappiamo ancora chi in quella sera, in quella notte, ha potuto abbatterci un aereo civile in tempo di pace. Erano però presenti, sempre Priore, aerei militari americani, aerei francesi, aerei inglesi, aerei belgi e alcuni con il transponder, ho imparato la targa in poche parole, spenta, probabilmente libici. Questo è il contesto che il giudice Priore, con l'ausilio degli esperti della NATO, riesce a mettere insieme. Da allora, quindi ormai da 20 anni, non sappiamo, la magistratura che ha riaperto le indagini sugli autori materiali dopo le dichiarazioni di Francesco Cossiga, che dal 2008, bontà sua, comincia a dire che probabilmente sono stati i francesi, l'ammiraglio Martini del Sismi gli diceva allora, fine anni 80, che probabilmente erano stati i francesi ad abbattere il 19, e continua dicendo che in quella sera, in quella notte, il generale Santovito, allora 80, capo del Sismi, P2, chiusa parentesi, ma è lo stesso, capo del Sismi, quella notte telefonò, mi piace ridirlo perché sono cose talmente grandi, telefonò a Gheddafi, Santovito, il generale nostro dei servizi segreti, Santovito, telefonò, dice Cossiga, non io, a Gheddafi dicendogli vai via, non è aria, spostati. C'era un volo Tripoli-Varsavia, quindi è possibile che ci fosse davvero una bene. E poi aggiunge, mi piace sempre finire quello che dice Cossiga nel 2008, il pilota dell'aereo francese, una volta tornato sulla porta aerei, resosi conto di quello che ha generato, fatto, eccetera, si suiciderà. Questo, dichiarazione allucinante, che fa il nostro ex presidente del Consiglio di quella notte, oltre che politico per tutta la vita, ex presidente della Repubblica dall'85 al 92, bene, dice queste cose, allora i magistrati riaprono le indagini, sono a tutt'oggi aperte. 10 minuti fa vi volevo dire che quest'anno staremo e diremo con forza che è il momento di chiuderle quelle indagini sugli autori materiali, perché sono passati altri 14 anni. Questa è la nostra battaglia che continua. Speriamo che la politica, la diplomazia, oltre alla magistratura, si renda conto che è una verità che dobbiamo, proprio per la nostra dignità nazionale, certo, riuscire a scrivere. Tantissimi eventi per ricordare appunto tutto ciò che è successo. Si partirà da lunedì 27, certo. Per proseguire fino anche a tutto agosto, fino a metà agosto, certo, quindi veramente certo. Il Parco della Zucca anche quest'anno riprenderà vita. Assolutamente sì, adesso faremo la nostra conferenza stampa per dire di tutte le iniziative che faremo, e quest'anno sarà in ricordo di Christian Boltanski, che ha anche molte iniziative, perché per l'appunto, come tutti saprete, questo grande artista, la cui opera è dentro al Museo per la Memoria di Ustica, assieme al Relitto del 19, ci ha abbandonato, è morto purtroppo il 14 luglio dello scorso anno. Quindi saremo con lui a fare ricordo anche di questa vicenda. Grazie mille.